con Andreina Garella, regista di Aide, Canti Migranti, a Parma, la chiesa di San Quirino, 14 ottobre. Andreina, ben trovata. Ci Buongiorno, buongiorno a tutti. presenti questo progetto? Sì, noi da anni, insieme ad un'associazione di Parma, Associazione Vagamonde, che promuove i diritti di cittadinanza delle popolazioni migranti, con una particolare attenzione alle donne migranti, portiamo avanti un progetto già dal 2003, un progetto teatrale rivolto appunto alle donne migranti, rifugiate, native. Quest'anno abbiamo avuto la proposta dal Verdi Ofi, Teatro Regio di Parma, di fare una produzione. E noi abbiamo pensato di ispirarci ad Aida, l'eroina verdiana, perché Aida in qualche modo rispecchia e racconta la nostra società, che è una storia che si ripete, una storia di migrazioni, una storia di fughe. Aida è come i tanti che arrivano oggi in Europa, ha conosciuto anche lei la condizione dell'esilio, della migrazione, che cosa significa la separazione e la lontananza, parla di guerre inutili, di oppressioni, di dittatori. Aida sono anche le nuove schiave che sono state in qualche modo con l'inganno portate via dalle loro famiglie e un'Europa costrette a prostituirsi. E, insomma, Aida è una storia che si ripete e per il nostro percorso era molto interessante approfondirla. Come avete costruito lo spettacolo? Lo spettacolo nasce da un laboratorio, abbiamo contattato e da tanto anche collaborato con delle associazioni che si occupano di accoglienza e di tutela dei rifugiati e con loro abbiamo incontrato delle donne che si sono rese disponibili a fare questo progetto e con altre donne native, insomma, nate in Italia. Abbiamo fatto questo percorso di laboratorio. Con quante persone? Quante erano? Noi siamo 23, in scena sono 23 donne fra migranti e native, 23 donne in scena coinvolte. Poi abbiamo fatto un percorso appunto laboratoriale, il teatro ha dato mille sguardi, è stato attento ai mille sguardi presenti all'interno di questo laboratorio e ha tentato di, in qualche modo, di accoglierli tutti all'interno del progetto finale, dello spettacolo finale. Sì. Su cosa hai puntato? Quali aspetti dell'Aida in questa nuova versione? Allora, abbiamo riflettuto sulle parole libertà, razzismo, cambiamento, chiusura, movimento, apertura, chiusura, appunto, paura, indifferenza. Abbiamo riflettuto intorno a queste parole, abbiamo creato dei piccoli testi intorno a queste parole e sull'identità, su chi sono io, e le abbiamo trasformate in drammaturgia, in poesia, e le abbiamo inserite all'interno dello spettacolo. Quanto è durata la preparazione dello spettacolo a partire dai laboratori e poi dopo questa data unica che succederà? Allora, la preparazione è durata circa 4 mesi, noi adesso stiamo lavorando tutti i giorni, da una decina di giorni. Dopo la data unica non si sa, i nostri sono progetti che nascono anche nei luoghi anche fisici. In questo caso nasce all'interno di un oratorio, di una chiesa sconsacrata, per cui un luogo particolarmente suggestivo ed è stato proprio pensato anche un allestimento per questo luogo, per cui le repliche sono complicate, però non è detto, insomma, non è detto che non si faccia. Per adesso pensiamo a domenica, poi vedremo. Comunque, noi comunque il percorso lo portiamo avanti, perché appunto è da anni che portiamo avanti questi progetti teatrali e non ci fermiamo, soprattutto in questi tempi così complicati, in cui tutti si fermano e tutti si non, dove si fanno leggi, contro i diritti delle persone, leggi sulla sicurezza che non si sa, la sicurezza di chi poi, per chi, noi non vogliamo, noi andiamo avanti. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per le informazioni? Sì, volentieri. Allora, noi abbiamo Facebook, la pagina di Festina Lente Teatro, e poi abbiamo il blog che è teatrofestinalente.blogspot.com. Anche lascio riferimento di Vagabonde, che è uguale associazionevagabonde.blogspot.com. Ci dai tu l'annuncio dello spettacolo? Sì, allora vi aspettiamo domenica 14 alla chiesa di San Quirino a Parma, dalle 16 alle 19. Lo spettacolo è uno spettacolo itinerante, il pubblico entrerà ogni 2-3 minuti per la durata di circa 30 minuti. Benissimo. Aide Canti Migranti, un saluto e un ringraziamento alla regista Andreina Garella. Andreina, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille a voi.